Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Il padre della mia amata Elizabeth era a quel tempo un noto, si può anzi dire, famoso cappellaio. Da ordinario consigliere imperiale era diventato un non straordinario barone ungherese. I costumi decisamente buffoneschi della vecchia monarchia esigevano talvolta che consiglieri commerciali di provenienza austriaca diventassero baroni ungheresi. Per il mio futuro suocero la guerra arrivava più che a proposito. Era già troppo vecchio per essere ancora richiamato e abbastanza giovane per trasformarsi da serio fabbricante di cappelli in svelto produttore di quei berretti militari che rendono tanto più dei cilindri e costano tanto di meno. Era mezzogiorno. Al municipio suonavano appunto le 12 quando feci il mio ingresso in casa sua e lui era appena rientrato da una visita al Ministero della Guerra che aveva avuto per lui esito favorevole. Aveva ottenuto un'ordinazione di 500.000 di berretti militari. In questo modo, mi disse, lui, pover'uomo alle soglie della vecchiaia, aveva tuttavia la possibilità di servire ancora la patria. Frattanto continuava a lisciarsi con entrambe le mani le fedine bionde filate di grigio. Era quasi come se volesse accarezzare le due metà della monarchia, la Cisleitania e la Transleitania. Era alto, corpulento e goffo. Mi faceva pensare a una specie di facchino beato che si era preso sulle spalle il peso di fabbricare 500.000 di berretti e sembrava piuttosto agevolato che gravato da quel peso. «Naturalmente lei è richiamato», disse con una voce francamente divertita. «Credo di poter supporre che mia figlia soffrirà della sua mancanza». In quel momento sentii che mi sarebbe stato impossibile chiedere a lui la mano di sua figlia. E con la precipitazione con cui si tenta di rendere l'impossibile pur tuttavia possibile, e con la fretta con la quale la morte, che avanzava a grandi passi, mi costringeva a gustare tutta l'intensità del mio misero avanzo di vita, dissi al cappellaio con poco garbo e molta impazienza: «Devo vedere subito la signorina sua figlia». «Mio giovane amico», rispose, «lo so, lei vuole chiedere la sua mano». «So che Elizabeth non dirà di no, perciò per il momento prenda la mia e si consideri mio figlio». E ciò dicendo, mi tese la sua mano grande, flaccida e fin troppo bianca. Io la presi ed ebbi la sensazione di rimestare una specie di squallida pasta. Era una mano senza pressione e senza calore. Sbugiardava la parola figlio, anzi, la ritrattava. Elizabeth venne e il cappellaio mi risparmiò ogni parola. «Il signor Trotta parte per la guerra», disse mio suocero, così come avrebbe potuto dire, «va in vacanza in Riviera e prima vorrebbe sposarti». Parlava con lo stesso tono di voce col quale un'ora prima al Ministero della Guerra doveva aver parlato dei berretti col soprintendente alle forniture. Ma c'era Elizabeth. C'era il suo sorriso, che mandava come una luce davanti a lei e incontro a me, una luce nata da lei e apparentemente eterna, giacché di continuo si rigenerava, una gioia argentina che pareva squillare, per quanto fosse muta. Ci abbracciammo. Ci baciammo per la prima volta appassionatamente, quasi senza pudore, nonostante la vigilanza del padre, anzi, forse proprio con la consapevolezza e il piacere perverso di avere accanto a noi un testimonio della nostra intimità. Mi lasciavo andare. Tempo non ne avevo. La morte mi stava già alle calcagna. Ero già figlio suo, più che figlio del cappellaio. Dovevo raggiungere il mio 21° cacciatori. Uscii in gran fretta. Passavo direttamente dai baci e dalle carezze all'esercito. Dall'amore allo sfacelo. Godevo di ambedue con lo stesso impeto nel cuore. Chiamai un fiacchere e andai in caserma. Là trovai un paio di amici e commilitoni. Alcuni di loro venivano, come me, direttamente dai baci e dalle carezze. Direttamente dai baci e dalle carezze venivano, e per loro era come se avessero già adempiuto ai più importanti obblighi di guerra. Le nozze erano fissate, ognuno di loro aveva una qualche ragazza da sposare, anche se non era una sposa che si conveniva alla sua posizione, ma una qualsiasi, una di quelle che a quei tempi spesso ci volavano incontro da luoghi sconosciuti, per motivi imperscrutabili, simili a falene che nelle notti d'estate, dalle finestre aperte, vengono a svolazzare sul tavolo, sul letto e sulla mensola del camino, fugaci, leggere, piene di dedizione, doni vellutati di una breve munifica notte. Ciascuno di noi, se solo fosse durata la pace, si sarebbe certamente opposto a un vincolo legale con una donna. Solo gli eredi al trono erano obbligati allora a contrarre il legittimo matrimonio. I nostri padri, a 30 anni, erano già dignitosissimi capifamiglia, spesso con prole numerosa. Ma in noi, la generazione fin dalla nascita votata alla guerra, l'istinto di procreare si era visibilmente spento. Non avevamo nessuna voglia di perpetuarci. La morte incrociava le sue mani ossute non solo sopra i calici dai quali bevevamo, ma anche sopra i giacigli notturni nei quali facevamo l'amore. E dunque anche per questo le nostre donne erano allora così casuali. Non ci curavamo neanche molto del piacere che il piacere ci dava. Ora però che la guerra all'improvviso ci chiamava al comando del distretto, non era il pensiero della morte che essa generava in noi per primo, ma quello dell'onore e del fratello suo, il rischio. Anche il sentimento dell'onore è un narcotico, e in noi addormentava la paura e tutti i cattivi presentimenti. Quando i malati gravi fanno testamento e mettono ordine nelle loro faccende terrene, può darsi che si sentano scorrere per le ossa un brivido di terrore. Ma noi eravamo giovani e sani in tutto il corpo. Non provavamo nessun terrore, nessun reale terrore. Ci piaceva solo, ci lusingava, provocarlo in coloro che restavano a casa. Sì, per vanità facevamo testamento. Per vanità contraevamo matrimoni sbrigativi, con una fretta che escludeva a priori una riflessione o magari un pentimento. Il matrimonio ci faceva apparire ancora più nobili di quanto già non lo fossimo col sacrificio del nostro sangue. Ci rendeva meno minacciosa e odiosa la morte, che certo noi temavamo, ma che ci sembrava comunque preferibile a un legame per la vita. Ci tagliavamo, per così dire, la ritirata. E quel primo indimenticabile e impetuoso slancio con cui andammo alle prime infauste battaglie era sicuramente nutrito dalla paura di un ritorno alla vita domestica, dalla paura di mobili che diventano decrepiti, di donne che perdono ogni fascino, di figli che vengono al mondo deliziosi come angeli e finiscono per diventare creature strane e ostili. No, tutto questo non lo volevamo. Eppure, sebbene sapessi di provare esattamente gli stessi sentimenti dei miei commilitoni, l'alfiere della riserva Barenfels, il sottotenente Hartmann, il tenente Link, il barone Lerch e l'allievo ufficiale dottor Brochiner, tutti costoro qui elencati, nessuno escluso, messi a confronto col mio cugino Josef Branco e col suo amico il vetturino ebreo Manes Reisiger, mi sembravano superficiali, frivoli, poco camerateschi, ottusi, e indegni sia della morte alla quale stavano andando incontro, sia dei testamenti e dei matrimoni che erano in procinto di fare. Io ero affezionato al mio 21° cacciatori, questo è certo. Il vecchio Imperial Regio Esercito conosceva un suo particolare patriottismo, un patriottismo regionale, un patriottismo di reggimento e di battaglione. Col capo plotone Marek, il caporale Törling, l'appuntato Alois Huber, ero, militarmente parlando, cresciuto insieme, prima durante il servizio di leva e poi durante le manovre annuali. E sotto le armi si cresce, per così dire, un'altra volta. Come da bambini, per esempio, si impara a camminare, così da soldati si impara a marciare. Mai si dimenticano le reclute che insieme a noi hanno imparato nella stessa ora a marciare. Né si dimenticano la pulitura del fucile, il maneggio delle armi, il modo di fare lo zaino e di piegare la coperta secondo il regolamento, il modo di avvolgere il mantello e di lucidare gli stivali, e il servizio di guardia, regolamento di servizio parte seconda, né le definizioni di subordinazione e disciplina, regolamento di servizio parte prima. Non si dimenticano mai, e nemmeno la Wasserwiese, su cui si è imparato a correre coi gomiti a terra, e in autunno inoltrato gli esercizi di scioltezza nella nebbia grigia che avvolgeva gli alberi e trasformava ogni abete in una vedova livida. E la radura davanti ai nostri occhi dove fra breve, dopo la pausa delle 10, sarebbero cominciate le manovre sul campo. Idillici preannunci della guerra sanguinosa. No, queste cose non si dimenticano. La Wasserwiese del 21° era la mia patria. Ma i miei commilitoni erano così allegri. Sedevamo insieme nella piccola osteria, che per la verità non era stata tale fin dall'inizio, cioè fin dalla nascita. Si era piuttosto trasformata in osteria, da comune negozio che era, nel quale si potevano comprare pistagnini, stellette, galloni per allievi ufficiali, rosette e stringhe da scarpe, nel corso dei lunghi, immemorabili anni durante i quali la nostra caserma, la caserma del 21° cacciatori, si era acclimatata nella zona. Le cosiddette passamanerie stavano ancora negli scaffali dietro al banco. Nella semioscurità della bottega si sentiva tuttora più l'odore delle scatole di cartone nelle quali erano riposte le stellette di caucciù bianco e di seta dorata e le rosette per funzionari del ministero e le dragone che sembravano mazzetti di minuta pioggerella d'oro che non quella di sidro e di grappa. Davanti al banco erano disposti 3 o 4 tavolinetti. Erano ancora di quando facevo l'allievo ufficiale. I tavolini li avevamo comprati noi a quell'epoca. E la licenza per gli alcolici, il proprietario della bottega, il passamanaio Zinker, l'aveva ottenuta unicamente grazie all'intercessione del comandante del nostro battaglione, il maggiore Pauli. I civili non potevano bere dal negoziante di passamani. La licenza riguardava esclusivamente i militari. Thank you. Ed eccoci seduti da capo insieme nella bottega come una volta, quando facevo l'allievo ufficiale. E proprio la spensieratezza con la quale ora i miei commilitoni plaudivano alla vittoria imminente, né più né meno come anni prima avevano brindato al prossimo esame per passare ufficiali, mi offendeva profondamente. Allora doveva essere stato molto forte in me il presentimento profetico, la sensazione che questi miei commilitoni fossero indubbiamente in grado di farsi onore a un esame, non però in una guerra. Erano venuti su troppo viziati nella Vienna incessantemente nutrita dai paesi della corona, figli inermi, quasi ridicolmente inermi, dell'infiacchita e fin troppo cantata città capitale e residenza imperiale, che simile a uno splendido ragno ammaliatore se ne stava nel bel mezzo della rete giallonera e incessantemente succhiava forza e sostanza e splendore dai circostanti paesi della corona. Delle tasse che pagava il mio povero cugino, il caldarostaio Josef Branko Trotta di Sipolje, delle tasse che pagava il vetturino ebreo Manes Reisiger di Zlotogrod, che conduceva un'esistenza miserabile, vivevano le superbe case sul Ring, che appartenevano alla famiglia ebrea tedesco a cui era stato conferito il titolo baronale, e gli edifici pubblici, il Parlamento, il Palazzo di Giustizia, l'Università, l'Istituto di Credito Fondiario, il Burgtheater e finanche la Direzione di Polizia. La variopinta allegrezza della città capitale e residenza imperiale si nutriva molto chiaramente, mio padre l'aveva detto tante volte, del tragico amore dei paesi della corona per l'Austria. Tragico, perché eternamente non ricambiato. Gli zigani della Pusta, gli uculi subcarpatici, i vetturini ebrei della Galizia, i miei parenti stessi, i caldarostai sloveni di Sipolje, i piantatori di tabacco svevi della Bakska, gli allevatori di cavalli della Steppa, quelli della Bosnia-Erzegovina, i mercanti di cavalli della Anà in Moravia, i tessitori dei monti metalliferi, i mugnai e i mercanti di coralli della Podonia, tutti costoro erano i munifici sostenitori dell'Austria. Quanto più poveri, tanto più munifici. Tanta pena c'era voluta, tanto dolore, spontaneamente offerti quasi fosse una cosa naturale, perché il centro della monarchia avesse fama nel mondo di patria del bel garbo, della letizia, della genialità. La grazia di cui godevamo cresceva e fioriva, ma il suo terreno era ingrassato dal dolore e dal lutto. Mentre sedavamo così tutti insieme, pensavo a Manes Reisiger e a Josef Branko. Quei due di sicuro non volevano andare a morire con così bel garbo, di una morte così garbata, come i miei compagni di battaglione. E nemmeno io. Nemmeno io. Forse in quel momento ero l'unico a sentire l'oscura oppressione del tempo a venire, a differenza, e dunque al contrario, dei miei commilitoni. Per questo, allora, mi alzai all'improvviso e dissi con mia stessa grande meraviglia: «Miei compagni, io vi ho tutti molto cari, così come deve essere fra commilitoni, sempre, ma in particolare un'ora prima della morte». A questo punto non potei proseguire. Il cuore mi si arrestò, la lingua mi venne meno. Mi ricordai di mio padre e, che Dio mi perdoni il peccato, mentii. Attribuì falsamente al mio defunto padre qualcosa che proprio non aveva mai detto, che però poteva proprio aver detto. Così proseguii. Uno degli ultimi desideri di mio padre fu che nel caso di una guerra, che egli sicuramente aveva previsto nel prossimo futuro, io non partissi con voi, col nostro amato ventunesimo, ma con un reggimento in cui milita mio cugino Josef Branko. Tacquero tutti. Mai, in vita mia, avevo sentito un silenzio simile. Era come se li avessi derubati di tutta la loro spensierata gioia per la guerra. Un guastafeste. Uno che guastava la festa della guerra. Ebbi la chiara sensazione che qui non avevo più nulla da cercare. Mi alzai e detti la mano a tutti. Ancora oggi sento le mani fredde, deluse, dei miei compagni del ventunesimo. Ero molto addolorato. Ma io volevo morire con Josef Branko, con mio cugino Josef Branko, il caldarostaio, e con Manes Reisiger, il vetturino di Zlotogrod, e non con dei ballerini di valzer. Così, per la prima volta, perdevo la mia prima patria, il ventunesimo, insieme con la nostra amata Wasserwies al Prater. Luciano Virgilio ha letto La cripta dei Cappuccini di Josef Roth. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Giovanni Pallanti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it